Luca Ricci, ben ritrovato al Radioteatro su Onda Rossa. Ciao, buongiorno, buongiorno a te e ai tuoi ascoltatori. Questa volta in veste di autore, perché parliamo di uno spettacolo, La lotta al terrore, che va in scena al Teatro India dal 17 al 21, e sono molto curioso. Ce lo intanto presenti un po' tu? Sì, molto volentieri. È un lavoro che ho scritto io insieme a Lucia Franchi, che è la persona con cui lavoro, insomma, solitamente. E diciamo che la domanda da cui parte lo spettacolo è cosa accadrebbe se nella sala riunioni di un piccolo comune della provincia italiana non specificato arrivasse la notizia che un tipo si è asserragliato dentro un supermercato minacciando di farsi saltare in aria. E allora qui abbiamo in una completa unità di tempo e di luogo, quindi lo spettacolo dura un'ora esatta, c'è cioè proprio un timer che gli spettatori possono vedere, e in questa unità di tempo e di luogo abbiamo questi tre personaggi, che sono il vice sindaco, perché il sindaco è andato a sciare, il segretario comunale e un impiegato comunale, che cercano in qualche modo di arrabattarsi fra adempimenti burocratici, memorie specifiche, insomma, di procedure da seguire, atteggiamenti in cui si cerca anche di buttare il cuore oltre l'ostacolo per provare a trovare possibili soluzioni a una situazione per la quale ogni momento che passa poi c'è sempre meno tempo perché possa essere risolta. Senti, come è nato tutto, dall'idea allo sviluppo? Ma guarda, come sempre la creazione di un testo, soprattutto di drammaturgia contemporanea, è un processo articolato che non c'è mai un momento che ti alzi da una sedia e dici ho trovato, questa è l'idea. Questo è una serie di suggestioni che ti arrivano dalla vita reale, dai libri che leggi, dai pensieri che sviluppi, dalle chiacchierate che fai con gli amici, con le persone che conosci, da un convegno che vai ad ascoltare, tante cose ti stimolano. In questo caso evidentemente c'è un tema che è fortemente legato all'attualità di ogni giorno. Noi comunque con questa paura latente che un attentato ci possa essere, ci conviviamo, è uno dei segni del nostro tempo, no? Comunque un tempo inquieto, nervoso, fatto di una paura umanissima, perché avere paura, insomma, di saltare in aria quando prendiamo la metropolitana, penso che sia una cosa a cui tutti abbiamo pensato qualche volta in questi ultimi anni, no? Speriamo ovviamente che non accada mai, però che non accada a Roma non significa che non stia accadendo in tante altre città dell'Europa, ma non solo dell'Europa, dell'Asia, dell'Africa, degli Stati Uniti e via dicendo. Quindi questo sicuramente è una spinta molto chiara, però lo spettacolo non parla specificamente di questo. Se io ti dovessi dire la parola centrale di cui parla lo spettacolo, è la parola responsabilità. Io ho la sensazione, insieme a Lucia Franchi che con me ha scritto questo testo, che il nostro sia un paese che tende moltissimo a rimpallare le responsabilità, a dire sempre che c'è qualcun altro che avrebbe potuto prendersi carico di quella cosa. Ma non mi sto riferendo semplicemente, appunto, alla gestione politica o burocratica, insomma, della vita pubblica. Io mi riferisco anche proprio alla nostra vita di ogni giorno. Sì. Molti di noi siamo soliti, appunto, allontanare da noi la responsabilità, pensare sempre che è colpa degli altri. E questo spettacolo si interroga molto su questo tema qua, su quanto, appunto, rimandiamo agli altri le cose di cui forse dovremmo spesso farci carico anche noi in prima persona. Allora Luca, una curiosità anche rispetto alla composizione del cast, che vede Gioia Salvatori, oltre a Simone Falloppa, anche Gioia Salvatori, che sono stati i nostri due ospiti, abbiamo ospitato loro lavori qui al Radioteatro, quindi li conosciamo bene, sono anche amici. Gioia però per lei rappresenta un esordio nel dramma in qualche modo. Ma guarda, innanzitutto non è proprio un dramma questo spettacolo, perché credo che la cosa divertente, che spero possa anche stimolare i tuoi ascoltatori, sì, a venire al Teatro India, insomma, da domani, da mercoledì 17 fino a domenica 21, è che in realtà questo è uno spettacolo che fa anche ridere, nel senso, immaginavo, che, sì, perché alla fine in questa situazione, che non ha nulla di comico, che è assolutamente, sì, drammatica, sì, però l'inadeguatezza con cui i tre personaggi si trovano a gestirla, come sempre genere al comico, perché poi il comico nasce da questo, no? Da uno sfasamento della realtà tra le aspettative e ciò che poi tu sei in grado di fare, lì nasce il comico. Tutti i grandi comici lavorano su questo sfasamento qua, e qui è ciò che accade, insomma. Quindi quando noi abbiamo fatto il cast di questo spettacolo, abbiamo scelto degli attori che potessero in qualche modo incarnare questo sfasamento, slittamento, chiamalo come vuoi, anche proprio con le loro facce. Quindi Gioia Salvatori, Gabriele Paolo Cacchi, un altro straordinario attore, insomma uno dei migliori a mio avviso della sua generazione, fra l'altro è romano, come del resto lo è anche Gioia, per quanto Gabriele adesso viva e lavora lavori soprattutto in Puglia. E però sono appunto delle facce, sono due persone che già tu li vedi in scena e ridi, perché hanno comunque questa capacità di portare questo mondo anche un po' di dolore, di sofferenza, perché poi un altro delle radici da cui il comico si genera è proprio anche la tristezza e la sofferenza, insomma, anche dei sguardi, delle facce, insomma, no? Sì. E quindi ecco, sono davvero un trio molto potente, molto forte, molto dinamico, cioè hanno un ritmo davvero indiavolato dentro questo lavoro, e sono vivi, sono tre attori pieni di energia, insomma non se ne vedono tanti con questo tipo di capacità di rendere umane la loro presenza sulla scena. Luca, le prime risposte a questo lavoro? Guarda, il lavoro ha debuttato l'estate scorsa al festival che noi dirigiamo in Toscana, Sansepolcro. Io partivo proprio quel giorno, quindi l'ho perso, lo esatto, vedrò a Roma. Beh, insomma, spero che insomma verrai a vederci in questi giorni, insieme insomma anche a chi ci ascolta. E quindi appunto ha debuttato lì, e poi non ha fatto ancora moltissime date, ha fatto Brescia, Rieti, Rimini e poco altro, adesso fa questa settimana qui a India Roma, e poi comincia con una tournée che andrà Cesenatico, Bologna, Teatro della Tosse a Genova, farà Milano, farà Napoli, Palermo, questo qui insomma nei prossimi mesi, tra la settimana prossima e aprile. Quindi insomma il grande slancio dello spettacolo deve ancora arrivare. A me sembra che dal debutto, insomma da queste quattro date che il lavoro ha fatto finora, la sensazione che passa appunto è proprio questa alternanza che lo spettatore ha fra il parteggiare per l'uno e per l'altro dei personaggi, in questa diatriba, in questa serie di tensioni che si generano fra di loro. Ed è esattamente la cosa che io e Lucia Franchi volevamo, cioè volevamo che, come dire, anche quelle posizioni più inaccettabili magari per alcuni di noi, insomma ognuno poi parte dalle proprie visioni del mondo, insomma, però più ottuse, più chiuse, insomma, no, al rapporto con le altre culture, via dicendo. Volevamo che anche quelle posizioni entrassero dentro quello spettacolo, ma con una capacità di guardarlo un pochino dal profondo, non semplicemente fermarsi al fatto questo qui è un razzista. C'è qualcos'altro alle volte dietro queste frasi fatte, dietro questa retorica del mandiamoli tutti a casa, gli stranieri sono tutti terroristi e via dicendo. C'è dell'altro, non dico che la giustifichi, però che possa in qualche modo anche raccontare come la posizione opposta ad un buonismo generico e non sia meno superficiale di quella in qualche modo. E quindi a me sembra che questo sia passato, questa alternanza fra possibili punti di vista in cui lo spettatore si trova anche a parteggiare, questa relazione fra il comico che nasce da un dramma in cui ci si trova, e mi sembra anche che una bella risposta ci sia stata sulla prova dei tre attori. Bene, allora ricordiamo l'appuntamento dal 17 al 21 di gennaio qui a Roma al Teatro India, La lotta al terrore. Luca, c'è anche un sito internet, una pagina Facebook o qualche altro riferimento? Sì, senza dubbio, c'è la pagina Facebook del Teatro di Roma, specificamente quella del Teatro India, dove potete trovare le informazioni sullo spettacolo, altrimenti la nostra, come Kilowatt Festival, che è appunto il soggetto che produce, la compagnia si chiama Capotrave, però insomma il soggetto che produce è anche il nostro festival, Kilowatt, quindi su Facebook Kilowatt Festival trovate anche lì insomma un po' di immagini, un piccolo trailer e insomma qualcosa che vi possa ulteriormente incuriosire per venire a India in questi giorni. Luca, un abbraccio, ci si vede all'India. Bene, ti aspetto anche i tuoi ascoltatori. Buona giornata a tutti quanti. Ciao, ciao, ciao.